18:51 minuti primi, torniamo in diretta. Questo è sempre il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Siamo dentro l'agenda, nello spazio riservato alle nostre corrispondenti e amiche che sentiamo per telefono. E allora siamo al telefono con Nicoletta La Menestrella. Ciao, ci senti? Ciao a tutte. Ben trovata. Senti, allora ti chiediamo direttamente, con te vogliamo parlare di questo primo festival con orari e attività a misura di mamma, e quindi questo Mom Festival, e se ci puoi raccontare come nasce l'idea e che cos'è soprattutto. Sì, il Mom Festival è un festival che ha un duplice scopo. Da una parte vuole far sentire la musica delle donne, perché purtroppo le donne che suonano, almeno insomma qui a Roma, ma in generale in Italia, ma poi in generale un po' come in tutti gli ambiti di lavoro della società italiana, purtroppo sono sempre messe un po' da parte. Ci sono uomini che suonano dappertutto, sempre questi gruppi tutti di maschi, e veramente noi ci eravamo un po' stufate di vedere sempre questi uomini in giro, e allora abbiamo pensato di proporre un festival di musica, solo di musica di donne. Ovviamente i gruppi possono anche avere degli elementi maschili dentro, però diciamo che il gruppo deve essere a prevalenza femminile, deve avere insomma una connotazione femminile, e questo da una parte. Poi il secondo scopo è quello di promuovere la musica, il divertimento, il festival anche per le mamme e i papà, insomma, che purtroppo in una città come Roma non riescono quasi mai a divertirsi, perché le bimbe è un macello portarsele in giro, perché la sera i concerti iniziano sempre alle 10:30 di sera e quindi è troppo tardi, poi il giorno dopo c'è la scuola, oppure le bambine hanno degli orari così difficili, non si possono mai portare nei locali, e allora abbiamo pensato di fare questo festival che sia family friendly, cioè che può venire incontro anche alle esigenze delle mamme con bimbe piccole. E la cosa si svolgerà in questo modo: infatti inizierà il pomeriggio di sabato e ci sarà attivo per tutto il tempo uno spazio baby in cui i genitori potranno lasciare le bimbe e i bimbi a delle persone che si occuperanno di loro e che faranno fare loro delle attività, insomma in tutta libertà, non è che saranno delle animazioni, però almeno le mamme e i papà potranno stare tranquilli a prendersi un aperitivo, a cenare, insomma senza stare sempre appresso alle bimbe e ai bimbi. E ci sarà anche la possibilità di far mangiare le bambine e i bambini con un menù bimbi, un po' come all'IKEA, no? Con 1 euro, 2 euro li fai mangiare. Ovviamente le bimbe non pagheranno l'ingresso, e poi ci sarà tutta la gente che accoglierà queste bimbe, che anche se andranno in giro a correre, a saltare, nessuno romperà le scatole, insomma, perché il festival avrà proprio questa caratteristica. Quando? Il festival dunque inizierà in primavera e ci saranno 4 appuntamenti di sabato, uno a marzo, uno a aprile, uno a maggio e uno a giugno. Le date ancora le stiamo insomma concretizzando, e il posto sarà il Forte Fanfulla, che sta a via Fanfulla al Pigneto. Si sa già qualcosa a partire su programmi di quelle sono le donne che verranno a suonare? Sì, dunque abbiamo sentito, insomma i gruppi sono tantissimi perché ci sono un sacco di donne che suonano qui a Roma. Bello. E ci fa molto piacere, e abbiamo già la disponibilità del gruppo Zacatal, sì, della banda Llorona, anche Momo ha detto che verrà, e ci sarà anche Francesca Fabris, poi ci sarà ovviamente la menestrella femminista, vabbè, perché certo, organizziamo non può noi mancare. E poi ci sarà Eli Natali con il suo gruppo, la sua ultima formazione, ci sarà Pepa Lopez de Leon e vabbè tante altre. Mi sa che c'è già un appuntamento a... Sì, dunque noi faremo una serata di finanziamento il 1 febbraio per appunto raccogliere un po' di fondi, perché appunto il festival è tutto autoprodotto, autofinanziato, e quindi invito tutte a venire a Lula Hop in via De Magistris venerdì 1° febbraio. Inizierà la serata alle 7:30. Se verranno delle mamme con dei bimbi, delle bimbe, la serata non sarà proprio family friendly quella, perché il posto dell'Hula Hoop non è così spazioso da prevedere, insomma, giochi per bambine e bambini. Però racconteremo una favola per le bimbe che saranno presenti. Dopodiché inizieranno i concerti. Suonerà il gruppo Carlo Forte Cotillon, poi suonerò io con il mio trio di musica popolare, e poi suonerà il gruppo Female Trouble, che fanno rock and roll anni 50 e 60. Ok, allora questo il 1° febbraio al Lula Hoop. Sì. Mi sa che hai detto tutto, ti ringraziamo. Grazie a voi. E comunque continueremo, e quando vuoi comunque ci mandi messaggi, mail, e noi continuiamo a seguire questo festival, che infatti dà voce alle donne, che è molto importante, come le dicevi tu prima. Sì, vi darò tutti gli appuntamenti quando sapremo le date. Ok, grazie mille. Bene. Grazie. Grazie, a presto. Ciao. Ciao.